24 mattino. Ancora buongiorno da Giulia Crivelli, bentrovati alla nostra rassegna stampa dei quotidiani italiani. Cominciamo dal Sole 24 Ore, ma poi ci racconterà meglio cosa c'è all'interno del Sole oggi Mauro Meazza, che ritroviamo verso le 7:40. Il palchettone, sapete, quella, diciamo, accorgimento grafico che si trova a volte per mettere una sorta di fascia sotto la testata, perché ci sono, quando ci sono troppe notizie importanti, e quindi bisogna trovare un modo per dare a tutte la giusta importanza. In questo caso il palchettone appunto è dedicato a Gentiloni, prima fiducia a Gentiloni e poi il virgolettato: siamo un governo di responsabilità, con moltissimi commenti. Ma gli altri due titoli in cui è divisa la prima pagina del Sole 24 Ore sono relativi a due notizie economiche, anzi alle due partite finanziarie che scaldano Piazza Affari. Da una parte c'è Mediaset, perché sapete, forse avete sentito, ieri il finanziere francese, e anche industriale, Vincent Bolloré, è salito al 12,32% di Mediaset. Fininvest a sua volta ha aumentato la sua quota, che è già l'azionista di maggioranza, ed è salita al 38,26%. Si tratta di un'OPA ostile. Che cos'è in generale un'OPA ostile? È un'offerta pubblica di acquisto, una scalata, in questo caso anche un tentativo di scalata, per la quale però il consiglio di amministrazione di una società non è d'accordo. Quindi sarebbe appunto, cioè, la volontà di Bolloré di salire, non dell'azionista principale, di lasciarlo fare. Vedremo cosa succederà oggi, perché come sempre quando succedono queste cose, quando c'è così tanto interesse su un titolo, il titolo sale. E addirittura ieri il titolo Mediaset, che è quotato a Piazza Affari, è salito del 31,8%. L'altra grande notizia, l'altra metà della prima pagina del Sole 24 Ore, è relativa a Unicredit, che ieri a Londra ha illustrato il piano industriale. Unicredit è la seconda banca del paese e attraversa anche lei una crisi, non come quella del Monte dei Paschi, però una crisi che ha richiesto un nuovo amministratore delegato, Moustier, che tra l'altro Marco Ferrando intervista oggi sul Sole 24 Ore, Jean-Pierre Moustier, e anche questo piano industriale, che tra l'altro prevede il taglio di 833 filiali, 3.900 esuberi solo in Italia, però si prevede il ritorno all'utile nel 2019. E anche in questo caso le prime indiscrezioni su questo, no, non sono indiscrezioni perché è stato presentato, quindi le prime reazioni a questo piano industriale sono state che il titolo ieri ha guadagnato il 16%. Ma veniamo alla prima pagina del Corriere della Sera, virgolettato di Gentiloni: al governo finché avrò la fiducia. Naturalmente tantissimi retroscena e commenti. In prima pagina anche la questione che riguarda Paola Muraro, ne abbiamo parlato anche nella prima parte di 24 mattino. L'assessore all'ambiente di Roma, che non è un esponente del Movimento 5 Stelle, però è stata cooptata nella giunta Raggi fin dal primo giorno, anche perché sono 10 anni che si occupa appunto della gestione dei rifiuti in particolare, ed è consulente dell'azienda municipalizzata dell'ambiente, che si occupa a sua volta della gestione dei rifiuti e dello smaltimento dei rifiuti. È ufficialmente indagata, ha ricevuto un avviso di garanzia e quindi si è dimessa. In prima pagina anche un accenno, vedremo che altri giornali danno maggiore enfasi a questa notizia, agli arresti che ci sono stati ieri, arresti di quello che viene definito il re del videopoker, un imprenditore, Francesco Corallo, di un ex parlamentare del PDL, La Boccetta, e poi le indagini che sono relative a Giancarlo Tugliani, cognato di Gianfranco Fini, e al padre di Gianfranco Tugliani, che è il suocero di Gianfranco Fini, che ha sposato la sorella, appunto, Elisabetta. Ricorderete, poi cercheremo di riassumere la questione la famosa questione della casa di Monte Carlo venduta. Casa di Monte Carlo che apparteneva ad AN, quindi il partito di cui Gianfranco Fini all'epoca era leader. La casa fu venduta a Gianfranco Tugliani per un prezzo che fu ritenuto molto inferiore al prezzo di mercato, circa un quinto, e quindi alcuni ipotizzarono che ci fosse qualcosa dietro a questo valore incongruo della transazione. Ma vedremo appunto dopo i dettagli, cercheremo di ricordare meglio la questione allora e gli aggiornamenti di oggi. La Repubblica sceglie di titolare sulla vicenda Mediaset: Vivendi, che è la principale società di Bolloré ed è quella con la quale sta scalando, sta tentando di scalare Mediaset, Vivendi assedio a Berlusconi e scontro finale su Mediaset. La fotonotizia però, come del resto sul Corriere, è dedicata all'assedio di Aleppo. Pare finalmente finito, c'è questo annuncio che è arrivato dalla Russia, battaglia vinta, la città in festa, è in realtà un po' tutto da vedere. In prima pagina, anche in questo caso, l'inchiesta di Roma, Muraro indagata lascia, Movimento 5 Stelle spaccati sulla giunta Raggi. Questo è uno dei retroscena raccontati da Repubblica. Pare infatti che, come era già successo in passato, la figura di Paola Muraro e quello che le sta succedendo abbia riportato a galla alcune divisioni all'interno del Movimento 5 Stelle. Il Messaggero: resto finché ho la fiducia, anche questo un virgolettato di Gentiloni. E poi subito sotto questo titolo che poi trovate, questa notizia che poi trovate anche qui con enfasi diverse sui vari quotidiani, che riguarda Valeria Fedeli, sapete la ex vicepresidente della Camera che ha sostituito il ministro Giannini all'istruzione. Non ha la laurea, scoppia il caso Fedeli. Allora, vediamo concretamente di che cosa si tratta. Ieri su un sito che molti di voi conosceranno, che è Dagospia, è apparsa questa prima indiscrezione, cioè che nel curriculum ufficiale online di Valeria Fedeli c'è scritto laureata, una laurea breve in scienze sociali. In realtà, quando la ministra ha fatto questa istruzione di secondo grado, la laurea non esisteva. Lei ha un diploma nella scuola per assistenti sociali UNSAS di Milano, che però oggi viene considerata una laurea breve. A voi giudicare se c'è materia per sollevare questo scandalo. Quindi i fatti sono questi. Quando Valeria Fedeli ha fatto questo corso di studi, non si chiamava laurea, oggi si chiama laurea e lei nel curriculum che è oggi online ha scritto laurea e da qui appunto il titolo e le polemiche che trovate su tutti i giornali. Vi dicevo della diversa enfasi, per esempio appunto il giornale ha anche il giornale un palchettone come quello che ha il Sole, quindi attacco francese a Mediaset e parla di questa vicenda, però il titolo principale: sgominata la banda della casa a Monte Carlo, arresti e indagati 6 anni dopo lo scoop del giornale. Fu infatti il giornale all'epoca a parlare per primo di questa vicenda della casa di Monte Carlo, svenduta per così dire al cognato di Gianfranco Fini, Giancarlo Tugliani. E poi Augusto Minzolini, che ricorderete, insomma, è stato direttore del TG1 e poi anche parlamentare commentatore, io è la prima volta che vedo un suo editoriale in prima pagina, ma forse sono io che ho scarsa memoria sul giornale. Questo editoriale si intitola La bomba sotto l'esecutivo e parla un po' dello scenario, anche citando molti commenti sentiti ieri in Parlamento. E invece il pezzo principale, il governo triste e la ministra con la laurea finta. Ci fermiamo però un attimo per una pausa, ci ritroviamo subito dopo. Mattino. Ancora buongiorno e buon mercoledì da Giulia Crivelli. Eravamo sulle prime pagine dei giornali e ringrazio l'ascoltatore che comunque mi ricorda che gli esuberi di Unicredit sono in totale 9.400, ma infatti abbiamo detto che sono 3.900 solo quelli in Italia. Il totale, Unicredit è una banca molto presente anche all'estero, soprattutto nell'est Europa, sono appunto 9.400. La prima pagina dell'Unità, dedicata a quello che è successo ieri sostanzialmente in aula alla Camera, dove è stata data la fiducia al governo Gentiloni, oggi il governo dovrà presentarsi al Senato. Finalmente il PD non si spacca, per appunto il giornale del PD, sono loro a dirlo, finalmente il PD non si spacca, come a sottolineare che invece negli ultimi tempi si è spaccato, naturalmente a partire dal referendum. La fotonotizia però riguarda un fatto che è avvenuto ieri e che non ho trovato sugli altri giornali. Siamo abituati a sentire di sbarchi soprattutto sulle coste siciliane. Ieri a Cagliari sono sbarcati in 854 immigrati clandestini e a bordo di questa carretta del mare, come vengono chiamate, c'erano anche 6 cadaveri. La foto è stata scattata appunto ieri al porto di Cagliari. Il titolo scelto per la fotonotizia è: l'Europa resta a guardare. La stampa fa una scelta simile a quella di Repubblica, titola sulla vicenda di Vivendi, l'assalto a Mediaset, i francesi salgono al 12,3, boom in borsa, più 31,8. La stampa però ricorda anche subito nel sommario che Fininvest ha denunciato queste mosse di Vivendi, le ha denunciate alla procura e per conoscenza è stata data copia della denuncia alla Consob, l'autorità di controllo dei mercati, perché Mediaset accusa appunto Vivendi di manipolazione del mercato e naturalmente il problema è appunto questo rialzo pazzesco che c'è stato dopo la notizia e vedremo insomma cosa succederà oggi all'apertura dei mercati. Manca circa un'ora e mezza. Sulla prima pagina del giornale anche un riferimento ad Aleppo, come del resto anche sul Messaggero, mi ero dimenticata di dirlo, anche lì la fotonotizia è dedicata ad Aleppo. Invece la fotonotizia della stampa, che al martedì ha sempre un approfondimento scientifico al suo interno, delle pagine dedicate alla scienza, alla divulgazione, c'è una foto di una scimmia, perché la notizia è uno studio pubblicato su Nature, che le scimmie possono parlare. In che senso? Nel senso che avrebbero la possibilità appunto di articolare un linguaggio, però il loro cervello non è adeguato. Può sembrare una contraddizione, però appunto ce lo spiega questo studio di Nature, che tra l'altro avvalora le tesi di Darwin sulle scimmie, che più o meno il grande scienziato aveva già anticipato questa possibilità. Trovate poi tutto a pagina 27 con questo titolo, appunto dove c'è questo supplemento tutto scienze, il titolo è divertente: se una scimmia ti chiedesse mi vuoi sposare, un test svela che i nostri cugini hanno la capacità di parlare. Darwin aveva ragione, ciò che manca è un cervello adeguato. La prima pagina del giorno, Gentiloni, fiducia gelida, il riferimento è un po' sia alla freddezza sicuramente di cui peraltro mi accusa anche, mi accusa, così mi dice un ascoltatore che dice che sono fin troppo calma e che quindi lui sta per addormentare, spero che non sia così, anzi dice che ho un tono da favola della buonanotte, io spero di no. In ogni caso il tono gelido, appunto la fiducia gelida di cui parla il giorno, questa atmosfera palesemente appunto fredda, alcuni addirittura hanno detto triste di ieri alla Camera, sia durante la presentazione di Gentiloni del suo governo, sia poi quando è stata data la fiducia, con un Parlamento con molte sedie vuote, perché abbiamo detto il Movimento 5 Stelle, la Lega e altre forze di opposizione hanno abbandonato l'aula. E la fotonotizia però del giorno è dedicata alla vicenda di Roma, perché abbiamo detto la Virginia Raggi ha annunciato le dimissioni di Paola Muraro dopo che si è saputo che l'assessore all'ambiente della Giunta Raggi è indagata. L'ha fatto Virginia Raggi con un video che il giorno definisce un video dal bunker. Un'altra notizia che solo il giorno ha in prima pagina, ma poi trovate anche all'interno su altri giornali, riguarda Fabrizio Corona. Ieri c'era stato il riesame dove i difensori di Fabrizio Corona avevano chiesto gli arresti domiciliari e in realtà Fabrizio Corona deve restare in carcere, perché la motivazione è troppo incline a delinquere. Poi trovate, per chi appunto segue le cronache, le gesta di Fabrizio Corona, trovate tutto a pagina 22. Il Fatto Quotidiano, il governo dei tarocchi. La Fedeli si dice laureata nel curriculum, ma non è vero, quindi molta enfasi anche a questa vicenda che abbiamo cercato di illustrare prima, cioè online sul curriculum ufficiale di Valeria Fedeli compare la scritta laureata in scienze sociali, in realtà gli studi che lei ha compiuto dopo il liceo, oggi vengono considerati una laurea, ma non lo erano allora. Da qui l'equivoco, ci si chiede appunto se era opportuno definire laurea una cosa che oggi sarebbe così, ma quando l'ha conseguita lei era un diploma. Temo che di questa vicenda si continuerà a parlare nei prossimi giorni. Dico temo perché non mi sembra poi, mi sembra più una polemica che altro, ma sono sicura che in molti non la pensano così. In prima pagina sul Fatto Quotidiano anche la vicenda degli arresti di ieri. Abbiamo visto l'arresto dell'imprenditore Corallo e dell'ex parlamentare La Boccetta e l'indagine aperta sul cognato e il suocero di Gianfranco Fini, cioè i due Tugliani. In prima pagina, anche lo dico perché secondo me molti ascoltatori di Radio 24 conoscono la sua voce, in copertina anche il richiamo a un'intervista che poi trovate all'interno a Luca Paolazzi, che è stato fino al 2009 un nostro collega qui al Sole 24 Ore e poi è diventato direttore del Centro Studi di Confindustria e quindi per questo spesso interviene e il fatto lo ha intervistato. Trovate poi l'intervista a pagina 5. Il foglio ha un approfondimento di Giuliano Ferrara, fondatore e ora editorialista del foglio, non più direttore, che il direttore è Claudio Cerasa. In politica i ritiri esistono. Mollare dopo un mandato se il mandato non è rinnovato. Impossibile la lezione di Orazio, quindi un po' di storia della politica, e le storie di Veltroni e Rutelli aiutano a ragionare bene sulla passione, ma non sulla saggezza delle scelte di Renzi e Boschi. La verità, Renzi assumeva consulenti a gogo mentre l'Italia lo mandava a casa, un approfondimento che un'inchiesta che ha fatto La Verità, il quotidiano fondato circa 3 mesi fa ormai da Maurizio Belpietro, che ci spiega come gli ultimi contratti siano stati formalizzati il 6 dicembre. In tutto Gentiloni, a questo punto, ha fatto il conto La Verità, è circondato da 353 nominati dal suo predecessore, molti dei quali scadranno solo nel 2018, spesi 3 milioni di euro in appena 2 mesi. Fotonotizia dedicata a Valeria Fedeli. Ma ora c'è Mauro Meazza che ci riporta un po' con fatti più reali e meno polemiche sulle pagine del Sole 24 Ore. Buongiorno Mauro. Buongiorno Giulia, caspita, un incarico non da poco. Allora, visto che hai parlato del Centro Studi Confindustria, ti segnalo oggi come articolo da meditazione quanto andiamo scrivendo sulla prima pagina di Impresa e Territori, che come sai va letta sempre scrupolosamente, tutta quanta la sezione, anche perché all'interno ci sono poi, ad esempio, i contributi dedicati al lavoro e allo stile. Sullo stile, tra l'altro, compare una tua omonima, un articolo di una tua omonima, ho visto, dedicato pure a questioni di lavoro. Ma non diciamo altro, No. diciamo invece che la meditazione è perché il dato del centro studi per quanto riguarda la produzione manifatturiera di ottobre non è buono. Per cui, in questo senso, un articolo da meditazione, insomma, c'è proprio, continua a esserci questo problema grave di crescita, che poi è uno dei temi anche più importanti insieme all'occupazione per quanto riguarda il nuovo governo. Hai già ricordato che parliamo di banche Sì. perché e di partite finanziarie nelle primissime pagine. Invito alla lettura della intervista a Mustier che riportiamo a pagina 2, intervista fatta da Marco Ferrandoli, molto si spiega, e invece per quanto riguarda MPS, Montepaschi, e naturalmente tutte le vicende, l'evolversi della cronaca, ma soprattutto qui direi da meditazione, ma anche da ausilio, le domande dei lettori, le domande che i lettori hanno inviato via email in redazione e alle quali diamo una serie di risposte, ricordando ad esempio come opera il fondo di garanzia per i depositi o quale può essere il corretto comportamento per alcuni E investimenti. era Tutto iniziata questo. ieri, no? Infatti l'avevo segnalato perché è una sorta di esperto risponde sulle Ah, questioni. me ne compiaccio perché ieri ero proprio, mi sono dovuto assentare e di questo mi dolgo invece, e invece mi compiaccio che tu lo abbia Sì. segnalato. Prosegue allora oggi, grazie della precisazione Giulia, prosegue oggi questa serie di risposte ai risparmiatori che però consiglio un po' a tutti perché diventa anche un po' un utile riassunto di questa vicenda che non è semplicissimo poi rispiegare ogni volta e quindi è anche importante, insomma, trovare un appoggio. Oh, ti voglio dire che molte birre europee stanno diventando giapponesi. L'ho letto sulle pagine di Finanza, che tu naturalmente, Giulia, come tutti i nostri ascoltatori, leggerai, Non religiosamente, ma no, avidamente, avidamente. avidamente. Allora, leggendo avidamente le pagine di Finanza, tra l'altro, tra le molte altre indicazioni, troverai anche appunto questa notizia, l'espansione giapponese tra i produttori di birra europei. Anche gli italiani sono stati interessati da questo movimento. Oh, non perdersi, mi raccomando, in allegato oggi al Sole 24 Ore, l'abituale focus del mercoledì, cioè 16 pagine di approfondimenti, questa volta dedicati al nuovo calendario fiscale. So che è la cosa, come dire, Ci siamo quasi sempre con più. l'IMU, giusto? Mancano. Sì, siamo quasi, l'abbiamo. Non è sola l'IMU. Lo stiamo anche ricordando, IMU e TASI, lo stiamo ricordando anche in questi giorni, e poi naturalmente c'è un calcolatore sul sito del Sole 24 Ore, se volete fare una stima, www.sole24ore.com, c'è la guida IMU e TASI per chi è chiamato al pagamento. C'è un ascoltatore che ha perso la tua rima di lunedì e chiede quando farai la prossima, sarà lunedì prossimo, giusto? Lunedì prossimo, okay. L'endecasillabo è del lunedì, tassativamente mi viene da dire per scegliere l'avverbio, tassativamente è un avverbio che mi piace per quello che sto per dirti, perché oltre alle 16 pagine dedicate al nuovo calendario fiscale, con anche lo spesometro che tanto infuriare i commercialisti fa, abbiamo anche altre cose sulla legge di bilancio. Il nuovo calendario fiscale deriva in realtà dal decreto fiscale, che è la pericena della legge di bilancio. Mentre sulla legge di bilancio, nelle pagine norme e tributi, 4 pagine da staccare e conservare dedicate alle misure per gli investimenti, e poi naturalmente il correttivo della legge di bilancio medesima. Cara Giulia, purtroppo abbiamo fatto tutto di fretta, ma la fretta talvolta non è buona consigliera, e allora bisogna fare qualche correzione. Qui Radio Fisco probabilmente mettono anche la correzione per il decreto legislativo 139, allineamento fisco-bilancio. Non tutti potranno aver capito, ma ti assicuro che chi legge, è interessato, cioè, ha capito. Religiosamente. Religiosamente. E tutto ciò premesso, Giulia? Mattino. Ancora buongiorno da Giulia Crivelli, eravamo sulle prime pagine dei giornali, ce ne mancano ancora un paio. Vi segnalo la prima pagina di Libero, che ha un titolo a tutta pagina sul nuovo governo: non fidatevi di questi qui, Gentiloni già non sa che fare, quindi chiaramente una posizione molto critica. Il pezzo è poi di Vittorio Feltri, che parte tra l'altro dall'editoriale che abbiamo letto ieri del direttore di Repubblica, Mario Calabresi, perché Vittorio Feltri scrive: se anche Mario Calabresi attacca Brandelli di governo, vuol dire che siamo messi male, perché in passato Repubblica è stata definita più volte molto filo renziana e quindi filo governativa. Poi vi segnalo da Libero, come faccio quando capita, un articolo di Giuseppe Cruciani, che con Libero collabora, e questa volta si dedica a un tema che gli è abbastanza caro, perché ne ha parlato anche in passato. Il titolo dell'articolo è: anche le donne sanno essere molto violente. Prende un po' spunto dal libro, l'ultimo libro di Aldo Cazzullo, che l'editorialista del Corriere, che sostiene che il mondo sarebbe un posto migliore se fosse governato dalle donne, o comunque se le donne avessero un ruolo maggiore in posti di potere. E poi appunto nella continuazione dell'articolo, a pagina 18, Giuseppe dice che la ferocia delle donne, peggio dei talebani, sono capaci di ogni violenza se credono in qualcosa, e poi pubblica alcuni estratti dei commenti a quella sui social, dove sappiamo la violenza verbale può raggiungere vette estreme su tutte le questioni, perché lo spunto è la vicenda del veterinario che ha ucciso un leone e poi era già stato massacrato per questo, e poi è morto mentre andava a caccia, non cadendo in un burrone. I commenti sui social sono stati terribili, molti dei quali, appunto, come riporta Giuseppe, fatti da donne. La prima pagina del Manifesto, allegria, e la foto però che fa da sfondo a questa parola è la foto del governo, e in effetti non ce n'è uno che, non dico sorrida, ma abbia così una faccia rilassata. È interessante scrutare questi volti mentre Paolo Gentiloni fa il suo discorso per avere la prima del voto sulla fiducia della Camera al suo governo. Cerchiamo qualche buona notizia, perché appunto allegria, per modo di dire, era quella citata dal Manifesto. Il Corriere della Sera pubblica uno studio secondo il quale non sprechiamo più cibo. Attenzione alle etichette e avanzi riciclati. Cala la quantità di cibo che buttiamo via, che sappiamo è un problema che fa impressione quando si pensa a quanto cibo viene sprecato nei paesi occidentali, o comunque nei paesi dove il cibo non scarseggia, a fronte poi delle persone che muoiono di fame ogni giorno. E tra l'altro c'è un'intervista di Angela Frenda allo chef stellato Massimo Bottura, che racconta un po' e dice che vuole prendere spunto dall'esperienza che ha fatto a Rio de Janeiro durante le Olimpiadi, quando aveva ideato e poi gestito una sorta di refettorio, e dice: dopo Rio sogno un refettorio anche a Londra. Vi segnalo dal Corriere della Sera, dalle pagine interne di Milano, che però potete trovare quasi, sono di Milano, ma il Corriere in generale le pubblica anche quando si acquista il Corriere fuori da Milano, dalla Lombardia. È un'indagine che il Corriere stesso definisce allarmante: le vaccinazioni sono in calo dei bambini, non si fida una madre su due. E sapete che su questo c'è molto dibattito. E a proposito di medicina, sempre sul Corriere della Sera, era il problema irrisolto in Italia dei farmaci equivalenti, cioè dove il principio attivo è lo stesso di un farmaco cosiddetto di marca, però appunto costa meno perché non è di una grande casa farmaceutica. Questo è possibile commercializzarli quando scade il brevetto. Il problema è che sono meno costosi, ma in Italia non decollano. E Adriana Bazzi ci spiega: un mercato che ha ancora molte resistenze culturali, come dimostra il caso della Teva, che è un leader mondiale dei generici da 20 anni nel nostro paese. A scienziati e associazioni si stanno impegnando per sgretolare alcuni dei falsi miti, cioè sostanzialmente che i farmaci equivalenti siano meno efficaci di quelli, appunto, tra virgolette, di marca. Terza puntata del viaggio che Repubblica ha iniziato all'interno del Front National di Marine Le Pen, importante perché Marine Le Pen è candidata alle presidenziali francesi che si terranno nel 2017. La puntata di oggi, che tra l'altro è la terza di 5, sempre di Anaïs Ginori, corrispondente dalla Francia della Repubblica, indaga un po' su tutti i quadri del partito. Inaugurando sezioni e reclutando nuovi manager, Le Pen ha strutturato il vecchio Front National per portarlo dall'opposizione al governo e ha persino aperto un think tank per formare l'elite dirigente. Quindi proprio la questione di cui anche in Italia si dibatte molto, sia per il Movimento 5 Stelle, una volta anche, anzi non una volta, per quanto riguarda Forza Italia, cioè i partiti più nuovi, i partiti importanti più nuovi, e poi se ne parla sempre per quanto riguarda il PD. I critici interni al PD dicono che manca e non c'è più quella che era una volta la scuola del PD. In ogni caso, appunto, Marine Le Pen si è impegnata molto su questo, sul creare una scuola interna al partito per i dirigenti del partito. Dalla pagina di Repubblica, per tornare alla scienza, che la scienza, la divulgazione scientifica, che sapete è un po' la mia passione, è una delle mie passioni, vi segnalo questo, che poi lo trovate anche su altri giornali, ma uno studio che ci spiega che la famiglia al tempo di Lucy naturalmente è uno dei nostri antenati, faceva parte degli Australopithecus afarensis, come si legge su Repubblica. La famiglia al tempo di Lucy, le impronte svelano l'arem, cioè molti, molti, molti, molti secoli fa esistevano già gli arem, maschi poligami e molto più grandi delle femmine. Studiando i loro passi, un team di ricercatori, guidato tra l'altro da alcuni scienziati italiani, ha riscritto la storia dei primi ominidi. Vi segnalo un'ultima, abbiamo veramente ancora poco tempo, però abbiamo parlato anche prima dalle 6:30 alle 7 di questo nuovo ministero che sostanzialmente potremmo definirlo Ministero per il Sud, tecnicamente si chiama Ministero per la Coesione Territoriale, ed è guidato da Claudio De Vincenti, una delle poche new entry in questo governo. La stampa lo ha intervistato: per il Mezzogiorno pronti 115 miliardi, così risolveremo le disuguaglianze. Speriamo davvero che questi buoni, almeno anche solo in parte, che davvero ci sia una svolta nel colmare questo grande divario che ancora c'è tra il nord e il sud del nostro paese. Purtroppo oggi veramente poco tempo e forse mi sono dilungata su alcuni argomenti, ma sfogliate i giornali, sono sempre molto ricchi e trovate interviste, approfondimenti e, appunto, martedì combinazione anche tanta divulgazione scientifica. Ringrazio Peter Bescapè in regia, Lorenzo Nespoli in redazione, auguro a tutti un buon mercoledì e ci risentiamo domani.